Pure. Allora, prendiamo in considerazione il lavoro fatto alcuni mesi fa su una coppia di Milano, in cui, di una cinquantina d'anni, con dei figli, due figli, in cui, ciascuno, in cui a un certo punto del loro rapporto il marito tradisce la moglie e va con un'altra donna. La moglie, si accorge, se crede di accorgersi di questo, chiede al marito, il marito nega per un po' fino a che poi la cosa viene evidente. La moglie reagisce con grande rabbia, si sente veramente tradita nel più profondo e entra in una crisi gravissima, perde peso, perde colpi e così via. Benissimo. E chiede al marito di andarsene di casa. Ora, dopo alcuni mesi che è successo questo, chiedono un aiuto come coppia, perché la coppia non è finita, in realtà questa donna, il rapporto con questa nuova donna, questa, ecco, si esaurisce e il marito è pronto a tornare indietro. Allora si tratta di capire com'è andata, perché la moglie è imbufalita, ecco, e quello che lei tutto sommato sembra desiderare è una sorta di vendetta, di farla pagare a lui. Qualunque tentativo di fargli vedere altre prospettive viene assolutamente frustrato. Se vado a chiedere, chiedo a lei, ma qual è lo scopo poi di punire quest'uomo in questa maniera, cioè rifiutando ogni possibile avvicinamento? E lei mi dice, beh, alla fine viene fuori che è bisogno che lui riconosca il dolore provocato. Ha bisogno, l'obiettivo è che possa vedere e accogliere la mia sofferenza. Ma in realtà il modo con cui lei si esprime, più che sofferenza, sembra rabbia, sembra desiderio di vendetta. E quindi che cosa succede? Che quando lui cerca di avvicinarsi, in realtà lei gli spara addosso delle mitragliate di rabbia e di furia e lui quindi si allontana. Proprio mentre si allontana, lei si sente ferita ulteriormente. Quindi si è creato un loop distruttivo, lui cerca di avvicinarsi e lei lo ferisce. Allora, la cosa di cui lei parla è, dice, ma io non capisco come mio marito possa aver fatto una cosa così e poi avermi detto tutte le cose che mi ha detto, del tipo: ma tra noi non c'era più nessuna relazione, io volevo andarmene, ho cercato in tutti i modi di dirtelo, ma non mi riusciva a far capire. E poi mi diceva: mi ha detto tutta una serie di cose molto pesanti e negative. E io, dice, quando mi ricordo quelle frasi, non posso sopportare di avere accanto quest'uomo, lo vorrei distruggere. D'altra parte, lo amo ancora. Quindi questa donna si trova in un conflitto tremendo, da una parte ne esprime la rabbia, ecco qui foglio 1, e dall'altra ricostruire la coppia. Se non ci fosse il desiderio di ricostruire la coppia, il conflitto sarebbe già bello finito, se si separano, tutto finito. In realtà non è così. Allora, il primo passaggio è questo, far vedere come il marito in realtà è entrato in due configurazioni possibili del suo cervello, no? Ecco, questo disegno si vede in questo foglio, la configurazione A e la configurazione B, chiamiamola. La configurazione A, vediamo la nuova configurazione del marito, cioè vediamo qua dentro una figura A con gli spigoli nera. Dall'altra vediamo la configurazione in base alla quale la moglie ha deciso di sposarlo, fare i figli insieme a lui, una configurazione rotonda e chiara. Sono proprio due forme energetiche completamente diverse. Ecco, una delle cose che le persone hanno difficoltà a capire è come ci possa essere discontinuità nel modo in cui una persona si presenta. Perché l'idea di base di tutte le persone è che uno è fatto in un certo modo. Cioè, se si chiama A, è A, e punto e basta, è A tutta la vita. E è difficilissimo comprendere che dentro una persona, oltre a A, abita anche B, C, D, E, F. E A è la configurazione dominante, ma poi ci sono tutte le altre cose. Nonostante che lei sia una psicologa, quindi queste cose dovrebbe In questo conoscere. caso era B la struttura dominante quando loro si sono conosciuti, si Certo, sono sposati. sì, certo, assolutamente. In base alla A non sarebbero nemmeno, non sarebbero nemmeno andati a cena fuori una volta. Quindi la configurazione B è una configurazione, come ti dicevo prima, armonica, accogliente, dolce. Mentre la configurazione A è una configurazione dura, aggressiva, violenta, egocentrica. Ripeto, ritorno a prima. L'idea comune che le persone hanno è che ogni persona sia fatta in un certo modo, che è quello. E gli è difficilissimo riconoscere che dentro la stessa persona abitano personaggi completamente diversi. Rifacciamoci alla storia della psicologia. a aspetti che spesso sono dimenticati. Il maestro di Jung, Breuer, che secondo alcuni è stato altrettanto grande di Freud, diceva che noi nasciamo schizofrenici, cioè abitati da personaggi completamente diversi, che poi uno di questi personaggi prende il sopravvento, comincia a coordinare la personalità e quindi la personalità comincia a allinearsi in un progetto. Ma questo coordinamento, questa funzione di direttore d'orchestra, questa forma di unitarietà è sempre a rischio. Quindi nasciamo indifferenziati, inconscio, profondo e indifferenziato. Pensate solo ai sogni. Il sogno inizia a New York, va avanti a Barcellona, in quest'epoca, e poi termina nel periodo di Augusto, nel periodo romano. E quindi l'inconscio non fa distinzioni di questo tipo. È la ragione che opera queste distinzioni, ma la ragione è un fatto recente. La psiche umana naviga nell'indifferenziato. Benissimo. Quindi, quando succede una cosa del genere, è chiaro che si rimane del tutto colpiti, no? dall'improvviso trasformazione del partner. Ma questo non deve essere considerato qualcosa di eccezionale. Il marito stesso disse, ma io è come in quel periodo fossi alcolizzato, come io non capissi la situazione. E passaggio importante è che c'era un bisogno del marito che non riusciva a essere soddisfatto nella coppia. E qui vediamo nel foglio 3, appunto, le molle, come noi usiamo, no? La molla numero 1, la numero 2, la numero 3. La molla 1 del bisogno non è ancora molto caricata, la molla 2 è più caricata, la molla 3 è così caricata che a un certo punto esplode. Qual era il bisogno del marito? Il bisogno del marito è di avere una vita passionale, intensa, frizzante. Quando la molla raggiunge la fase 3, si verifica l'enantiodromia, cioè il corso al contrario, e compare quindi questa figura sulla destra a spigoli. La moglie non riconosce più il marito perché è cambiato. In realtà non è cambiato il marito, aveva già dentro questa cosa che si stava preparando. Allora si può comprendere come molte delle coppie entrano in crisi perché i bisogni non vengono ascoltati e accolti. C'è una sordità, a volte reciproca, a volte di uno prevalente sull'altro, e questa sordità porta alla compressione della molla che a un certo punto scatta. Quando la molla scatta, la persona dentro cui è scattata la molla cambia atteggiamento, diventa come un altro. E questo è tanto più vero quanto più l'io non era abbastanza solido e quindi non c'è una continuità nell'io. Sappiamo che l'io, una delle componenti dell'io, è coscienza e volontà, è coscienza del processo storico. Ci sono persone che non hanno la minima coscienza del processo storico. Quando cambia qualcosa dentro si dimenticano di come erano prima, poi cambiano di nuovo e si dimenticano del passaggio di prima. Non si insisterà mai abbastanza sul fatto che è importante tenere un diario dell'anima per cogliere questi mutamenti, proprio perché la psiche umana, finché non abbiamo un io storico, non è in grado di tenere in piedi. Crede di tenere in piedi, ma non è vero. L'esperienza mia è questa, che molte persone che hanno finalmente scritto qualcosa, dopo un po' di tempo sono rimasti sorpresi di quelle che avevano scritto 6 mesi prima. Ma dici, ma era un altro? No, eri lo stesso, solo che dentro di te abitava quella parte. Allora, di cosa aveva bisogno quest'uomo? Aveva bisogno, eccolo qui, di amore inteso come energia, carica di energia vitale, carico di energia vitale. Allora, nella coppia questo era avvenuto per un periodo, ma a un certo punto qualcosa era successo per cui, come spesso accade nelle coppie, l'energia vitale, anziché aumentare nel flusso tra di loro, cominciava a ridursi. Quindi veniva meno a quello che è la passione. Per molte coppie questo è dato per scontato, e quello che mi ha sorpreso è che questa psicologa dicesse, beh, ma è naturale che col tempo la passione venga meno, e che quindi non ci sia quello che lui cerca, cioè una vita frizzante. Anche questo è un luogo comune, tremendo. Cioè l'idea che 30, 40, 50 anni, passaggi successivi sono le ciabatte, la televisione e poi una serie di acciacchi, fino a che finalmente arriva la morte a liberarci da questa tortura. Beh, questa è una visione tipicamente nostra, della nostra cultura, che è una cultura della morte, una cultura dove l'energia vitale viene castrata non a 30, 40, 50 anni, ma da piccoli, dopo, quando si comincia ad andare a scuola, molto presto. Bene, ho cercato di far capire a questa signora di come c'era un bisogno del marito che non era soddisfatto e che questo ha portato a questa trasformazione, a questo processo di enantiotromia. Nonostante che lei fosse una psicologa, forse era talmente preda del suo dolore che, ecco la figura, questa qui del vaso, qualunque cosa io dicessi, non entrava assolutamente nulla, c'era un coperchio sopra. E allora qui in alto ho segnato 0,000 possibilità di cambiare, periodo 0 di possibilità di cambiare. Finché il vaso rimane chiuso, non c'è possibilità di introdurre niente di nuovo. Ho fatto comprendere come questa situazione questo acting out del marito, e quindi questa crisi di coppia, possa costituire qualcosa da considerare irrimediabile, e allora le cose non c'è altro che andare all'avvocato e separarsi, prima situazione, oppure qualcosa di irrimediabile, ma il rimedio che riporta le cose come prima non esiste, perché intanto perché la vita non ripete se stessa, cambia sempre. L'unico rimedio per una coppia così è fare un balzo in avanti, in modo che la crisi abbia prodotto qualcosa di meglio di cosa c'era prima. Ricordiamoci che crisi in cinese e in altre lingue significa sia pericolo, infatti pericolo cioè della distruzione, sia opportunità. Quindi passo al foglio 6, in cui ho fatto vedere a questa persona come effettivamente dentro di lei, come ci fossero dei quadrati, provandoci a introdurre dei rotondi, venivano espulsi tutti. E ho dovuto parlare del suo rapporto con suo padre, che un po' conoscevo, l'ho già visto in altre occasioni. Il padre è una persona buona ma autoritaria, che aveva creato un centro, era un professore di grande successo e che però non si era accorto minimamente dei bisogni della figlia, perché si occupava soltanto di quello che era il suo progetto, andava avanti con un carro armato. Allora questa donna era stata esposta a due forze, quella del cuore del padre, che è un uomo molto buono, ma nello stesso tempo alberga al suo interno una parte fascista, ecco qui la croce uncinata. Quindi quando siamo esposti a una persona che manifesta entrambe queste cose, il cuore e la croce uncinata, si genera il ben noto doppio legame. Che cosa è successo quindi? È successo che praticamente quest'uomo ha fatto un acting out nella vita, si è andato con un'altra donna, è stato estromesso da casa sua, da sua moglie, e ci troviamo in questa crisi tremenda. Lui prova a tornare, ma tutti i tentativi che fa di mettere altre strutture dentro la testa di sua moglie sono destinati a fallire. Ecco qua, perché dentro la sua moglie sono dei quadrati, lui prova a mettere dei rotondi, come del resto ho provato io, e vengono espulsi tutti. È chiaro che il marito avrebbe potuto fare una mossa assai più sensata, che era quella di separarsi prima. Cioè dire, era anni che voleva separarsi, non l'ha fatto perché non ci riusciva, perché poi c'è il discorso della rana bollita, uno sta lì dentro, ma lui sentiva sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. E quando ha trovato questa occasione è uscito di casa e ha fatto questa cosa. Quindi lui si è trovato con una condizione, io ho descritto in questo modo, come se lui fosse un gatto, che è un bravo gatto, non è un gatto che graffia eccetera, però se lo metti in un angolo e lo minaccia, a un certo punto anche il gatto più buono del mondo comincia a tirare fuori le unghie e i denti, e di lì si vede l'enantiotromia. Quando il bisogno viene oppresso per troppo tempo, il bisogno oppresso diventa un tiranno, cioè diventa dominante e diventa una bella, perché quindi tu hai detto giustamente prima, ma detta così sembra che la responsabilità sia tutta della moglie, e in effetti fino adesso abbiamo esaminato questo aspetto. Però già esce fuori quest'altro tema, che il marito comunque, se avesse avuto più lucidità e più forza, si sarebbe separato prima. Cioè avrebbe messo la moglie in condizioni di dover prendere delle decisioni. Ok. Adesso vediamo, dopo questa analisi, ho chiesto ai due, al marito e alla moglie, quanto ci si riconoscevano. E il marito, 100%, si riconosceva perfettamente. La moglie, 80%. Mancava qualcosa. Ed ecco, vediamo qual è il pezzo mancante. Dunque, la descrizione della moglie è che il marito aveva bisogno di passionalità, di vita frizzante e così via. Ma in realtà lui, di fondo, è un depresso. Cioè che non si carica mai abbastanza da solo, che se ha anche delle soddisfazioni nella vita, o sul lavoro, o degli hobby, però non gli basta mai il viaggio, la barca a vela, non è mai sufficiente. Quindi c'è un fondo depressivo. Chi ha portato l'entusiasmo nella coppia è stata più sempre lei. Quindi si è presa, eccolo qua, un bel carico di tenere su l'energia vitale della coppia. Passano gli anni, cominciano ad esserci le difficoltà come in tutte le famiglie del mondo, qualche problema e così via. E quindi cosa succede? Che lei che ha sempre messo carica, un giorno ce ne mette un po' meno e il marito cosa fa? Anziché mettercela lui, prende e ne va a cercare un'altra parte. E questo per la moglie è una ferita tremenda. Ok. Allora, la domanda è: come mai tu, moglie, ti sei assunta questo tipo di danza? Cioè sei stata dentro questo tipo di danza. Io do l'energia, io mi carico del peso di dover tenere su l'energia della famiglia e vado avanti così. Beh, la risposta è semplice, è stata abituata così in famiglia. Nel rapporto col padre, lei ha dovuto ingoiare e mantenere sempre l'entusiasmo e tirare sempre la carretta. Avevano un centro, lei si dedicava tantissimo a questo centro, trascurando molti altri poi potenziali interessi. Quindi lei è stata abituata da bambina a fare la volontà del padre. E quindi ha sviluppato un carattere adattabile, capace di, come padre, di avere molto entusiasmo, ma mettere questo entusiasmo al servizio di un'altra persona. E naturalmente la moglie cosa dice? Ma accidenti, lo faccio per 10 anni, lo faccio per 20, lo faccio per 30, mi aspetto che dopo aver dato 3.000, quando ho bisogno io di qualcosa o calo un po', ricevo magari 50 o 100, e invece proprio nel momento in cui ha bisogno lei, oppure si indebolisce, ecco che l'altro non solo non dà nulla, ma va a prendere da un'altra parte. In questo senso, la ferita per questa persona è informabile. Come però ho detto per il marito, anche lei ha fatto un errore. Se il marito non si è separato perché aveva un certo bisogno, anche lei ha secondato questo tipo di danza che una volta avviata diventa la norma. Racconto spesso questo aneddoto, c'è una persona... C'è un mendicante in una strada e ci sono due uomini che escono al mattino, che vanno in ufficio, passano davanti al mendicante. Uno gli dà sempre 10 euro, il mendicante si ringrazia, ma sempre di meno. L'altro non solo non gli dà qualcosa, ma dice: ma scostati, togliti di qui, lo tratta male. Un giorno capita che quello che l'ha sempre trattato male, il mendicante, cambia idea, gli dà 20 euro. A questo punto il mendicante ha un ringraziamento nei confronti di quest'uomo come se gli avesse dato la vita, no? Di lì a poco passa quello che gli ha sempre dato 10 euro ogni giorno per 10 anni, quindi in tutto qualche migliaia di euro. E che cosa accade? Accade che quando quest'uomo che gli aveva sempre dato dei soldi per un giorno passa e non glieli dà, viene insultato e maledetto. E questa storia indica come le abitudini che noi generiamo creano una realtà. Se io abito qualcuno a essere servito sempre, il giorno che servo di meno vengo attaccato. Questo fa parte di una struttura di potere che è diffusissima, di cui ci occuperemo per un'altra volta, perché a questo stiamo arrivando in fondo, a questa nostra conversazione. In questa coppia le cose possono andare in porto, ieri abbiamo completato il lavoro in questo modo, e certamente la moglie ha bisogno di sentire il dolore del marito per quello che ha fatto, e questo è avvenuto. Io ho potuto far vedere come il marito è una persona sensibile, dolce, come ha sempre riconosciuto, e per cui ha sposato un uomo così, e che quindi quest'uomo è semplicemente andato in un'altra struttura di personalità, e che in realtà lo si vede, perché lo si vede da quanto è affranto, da quanto è distrutto per il dolore che ha provocato. E questo la moglie l'ha capito, l'ha colto, e questo l'ha già di parecchio rasserenata. D'altra parte la moglie si è resa conto di come ha compiuto degli errori anche lei nel matrimonio, e per esempio il fatto che se lui era un depresso e lei si sostituiva a lei nel generare la carica, questo è sbagliato. Cioè non si deve fare ciò che cioè lei ha pagato delle tasse che non erano le sue. E quando noi facciamo ciò che non compete a noi, anche se qualcosa che facciamo al servizio di qualcun altro, la paghiamo sempre. Non c'è verso. Quindi la realtà è che ognuno deve pagare il prezzo di stare al mondo, il costo di stare al mondo, e quando qualcuno si accolla i prezzi di un altro o li fa accollare a qualcun altro, lì cominciano le tragedie umane. Si collega col vitale. Come fate a fare in modo che lui vedesse e riconoscesse il dolore che ha causato in lei? Dunque, lui era già consapevole del dolore che aveva causato in lei, ma il modo in cui lei lo esprimeva non era dolore, era rabbia, era desiderio di punizione. E di fronte alla rabbia e al desiderio di far del male, lui non poteva riconoscere dolore, perché già lui soffriva, cioè lui era stato dentro un processo di sofferenza, non era un galeotto che si è andato a fare l'avventura per divertirsi. Lui era uno che era disperato e che è andato a cercare, si è trovato di fronte a un'avventura per tirarsi fuori dalla disperazione. È chiaro che lui sapeva il dolore della moglie, ma la moglie non gli parlava il linguaggio del dolore, ma gli parlava il linguaggio della vendetta. E lei non si rendeva conto che in questo modo rendeva la coppia assolutamente morta. Non c'era più niente da fare. Perché cosa succede? Che il suo bisogno di veder riconoscere il proprio dolore veniva e cercava di soddisfare questo bisogno attraverso uno strumento sbagliato, che è quello della rabbia. Se io ho dolore, devo manifestare il dolore, non la rabbia. La rabbia copre il dolore. Ecco. Quindi la rabbia diventa una struttura di emozione, non è un'emozione primaria. E la rabbia cosa comporta anche? Tu sei colpevole, cioè portava suo marito in tribunale per vederlo davanti a un tribunale spietato per vederlo condannare e maledire. È chiaro che a quel punto lì, se io sono sottoposto a un processo penale, non è che devo manifestare chissà quale dolore nei confronti della vittima, perché la pago già col tribunale. Quindi ci sono due tipi di giustizia, quella punitiva e quella riparativa. Quella punitiva si avvale di strumenti del potere dominio, quella riparativa si avvale dell'amore. Ma non puoi mischiare queste due cose. Cioè, non puoi chiamare in tribunale qualcuno, gli fai sottoporre tutta la procedura penale che lo porterà in carcere e all'ergastolo, e dopo pretendere anche che però lui provi chissà quale simpatia per la vittima. A quel punto non lo può provare. La giustizia riparativa si fonda su tutto altro tipo di paradigma. Ecco, quando vogliamo mettere insieme queste due strutture, giustizia punitiva, giustizia riparativa, è chiaro che creiamo dei doppi legami di nuovo. Se voglio punire, punisco. Se voglio riparare, riparo. Sono due incompatibili. Vedi, la giustizia punitiva o retributiva, insomma, la giustizia che sia sempre accompagnata alle società dell'efficienza, non alle società armoniche, in cui hanno privilegiato l'armonia, è una giustizia in cui il campo semantico è costellato di questi termini: colpa, punizione, accusa, pretese, leggi, norme, osservanze, ecco, formalità. La giustizia punitiva è tutta formale. E lì dentro c'è una sorta di congruenza, di logica. C'è una congruenza e c'è una logica. Sì. La giustizia riparativa, che è la giustizia delle società che hanno privilegiato l'armonia, è una giustizia che tiene conto della pluralità, della complessità degli esseri umani, e che non c'è una distinzione tra buoni e cattivi, tra giusti e sbagliati, cioè ci sono esseri umani complessi in cui emergono differenti forze.